ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 19ª puntata. Ci trovammo tutti da capo nel sotterraneo. O che qualcuno era forse capace di pensare? Mi accoccolai in terra e mi presi la testa fra le mani. Scottava, avevo ancora la febbre. Amici, disse a voce alta Mastro Natale, non si poteva fare altro. Poca luce entrava nel sotterraneo, da finestrelle con inferriate, distanti una decina di passi l'una dall'altra che davano sul mare, così vicine all'acqua che nelle mareggiate d'inverno il sotterraneo si allagava. Quel giorno sentivamo il rumore del mare come se fossimo stati su un galeone. Scese i gradini del sotterraneo il rinnegato calabrese e, fermatosi sull'ultimo, disse: «Statemi a sentire, Otrantini. Avete ancora tempo per cambiare idea, sino all'alba. E non è necessario che voi cambiate idea dentro di voi, basta parole. Che sono le parole, infine? Niente sono. Perché avete tanta paura delle parole?» Da principio nessuno rispose, ma al passare di qualche minuto Mazzapinta gridò esasperato: «Però quelli che hanno i soldi per il riscatto non vi fa niente se restano cristiani, eh? Noi invece ci mandate a morire!» Il calabrese allargò le braccia come il prete al lite missa est, sospirò. «E questa cosa com'è?» insistette Mazzapinta. «Così», lui rispose. «Già, così», ripeté Mazzapinta, rosso quanto uno che sta soffocando. Il calabrese se ne andò. «Adesso ripeterà il discorsetto negli altri sotterranei», esclamò calmo Mastro Natale. Ognuno di noi, io credo, pensava la stessa cosa e provava un sentimento come se fosse in un posto non vero, con dei compagni non veri, tutto un brutto sogno. Solo in fondo al sotterraneo un gruppo di otrantini si scalmanava in una discussione e gridava. Forse non avevano ancora deciso se restare o andare. Le loro voci rintronavano nella mia testa vuotata dalla febbre, finché di colpo cominciai a smaniare per i brividi, a sentire delle cascate d'acqua nella schiena. «Però è vero», si infiammò De Raho, «se avevamo denari restavamo cristiani e restavamo vivi. Non c'è bene per i poveri a questo mondo. È un mondo bello ma tutto sbagliato, e il nostro è un morire da stupidi solo perché siamo poveri». «No, che non è da stupidi», saltò su Mazzapinta. «Uno viene e ti dice: adesso butta via tutte le tue idee. Eh no, per Dio», tu rispondi: «io le mie idee non le butto via», e così muori. Questo non è morire da stupidi. In quella, frate Leone da Faggiano, lasciando il suo posto, cominciò a girare in mezzo a noi, a dire che bisognava andare incontro all'aldilà come si conveniva. Abbassando la voce, facendola dolce e paterna, diceva che ci raccogliessimo e ci occupassimo del passaggio della nostra anima, dell'incontro con Dio e con la corte celeste. Una parola. A me, per esempio, non usciva di mente Nicoletta, la moglie. Mi domandavo: dove sarà adesso? Che farà? Starà piangendo? Le donne, quando sono nei guai, piangono tutte. Solo Idrusa non piangeva. Neanche alla morte del marito aveva versato una lacrima, ma quella era diversa, stravagante. Mi ricordai d'un tratto di quando ero andato a casa di Nicoletta la vigilia della Madonna Assunta a chiederla per moglie. Sedevano tutti nel cortile della masseria in circolo con le mani in grembo, come si usa la festa, con l'aria un poco incantata che prende la gente di fatica quando non sta facendo niente. I vecchi sedevano dignitosi, sapendosi superiori agli altri. I giovani, Nicoletta, la sorella, i fratelli, si guardavano curiosamente, vogliosi di ridere, tutti tesi, aspettando qualcosa che poi non c'era fuori, ma doveva essere dentro di loro, aspettando la vita, io dico. Quando il padre di Nicoletta, appena mi vide arrivare, disse: «Volesse sedersi qua, Nakira», facendo segno a un posto vuoto vicino a Nicoletta, io fui sicuro che me la davano in sposa, e la felicità divenne tanta che non seppi più parlare per un po'. Sedevo zitto dentro la mia veste della festa, anch'io con le mani in grembo. Guardavo i miei vicini impacciato, e nello stesso tempo avrei voluto dare prova di grandezza come un paladino. Avrei voluto che tutti avessero bisogno del mio aiuto e io li potessi salvare, con gran pericolo della mia persona. A questo io stavo pensando allorché Mazzapinta disse: «I nostri figli torneranno a Otranto. Quando la città sarà liberata, dice che metteranno nei patti la consegna dei prigionieri. Intanto frate Leone, finito il giro del sotterraneo, tornò vicino a noi e prese a contarci, poiché stava organizzando la confessione e i turni secondo i quali dovevamo andare in fondo al sotterraneo da padre Epifani, che ci avrebbe liberato l'anima dai peccati di tutta la vita. Vediamo un po', diceva frate Leone. Ognuno di noi ha sulla coscienza dei peccati, adesso è giusto il momento di liberarsene, offrendo in cambio a Dio la sofferenza che ci ha mandato. Perché Dio, fratelli miei, nella sua saggezza infinita ha stabilito tutto per il bene delle vostre anime. Quando noi nemmeno ci pensavamo, lui predisponeva già tutto e a noi non resta che seguire la sua santa volontà. Mamma mia, fratelli, quanto è grande la divina misericordia! Era curioso il fatto. Più lui dipingeva la liberazione delle nostre anime, congiungendo le mani, agitandosi tutto all'idea di una grande felicità che eravamo stati sul punto di perdere a questo mondo e ora avevamo sicuramente ritrovato, più a me la vita pareva una cosa tanto bella, tanto meravigliosa, fatta solo per continuare così anni e anni. Poi io, per esempio, avevo una voglia pazza di un bicchiere di vino, forse era l'arsura della febbre. Mi si era ficcata in testa l'idea del vino e non ce la facevo a mandarla via. Se Antonello non fosse morto, pensai, riuscivo a portare anche qui una quartara di vino. Che uomo quell'Antonello! Mi alzai in piedi, ma cominciai a barcollare per la febbre. Il respiro mi usciva a fatica, mi tremavano le viscere. Mazzapinta fece giusto in tempo ad afferrarmi mentre stavo precipitando a terra. Quando mi distese sul chiancato e la mia schiena toccò la pietra, provai un brivido come mi avesse buttato in acqua. «Frate Leone», gridò Mazzapinta, «questo non può muoversi, chiamate padre Epifani». «Mazzapinta», pregai stringendogli le mani, «senti, che c'è? Io non voglio morire, io voglio vivere». «Io pure lo vorrei, adesso sta quieto. Io voglio bere, scendere a mare, io voglio Nicoletta», sospiravo agitandomi. «Oi, questo è il delirio», gridò Mazzapinta. «E piantala, che siete diventati tutti serafini, alla malora la nostra sorte!» urlai. «Padre Epifani, vedete un po'!» gridava Mazzapinta. «Questo ha uno sconquasso in testa!» Sudavo e m'aveva preso un'ira furiosa. Mi pareva che io fossi uscito a questo mondo appositamente per essere ammazzato e la cosa mi mandava in bestia. Infine persi conoscenza. Quando la ripresi, udì una voce che arrivava al cuore, tanto era dolce. «Nakira, come stai? Mi senti, Nakira?» Gli occhi buoni, chiari e malinconici di padre Epifani mi fissavano. C'era ancora luce nel sotterraneo e il sole del tramonto accarezzava il muro vicino a me, proprio di rimpetto a una delle finestrelle. Guardai il sole, guardai padre Epifani, dissi: «A me, padre, Dio non ha dato la stessa forza che agli altri». «Ma tu hai un attacco di malaria», lui rispose. «Forse per te si può fare qualcosa. Si può dire che non sei in senno per decidere». A queste parole lo afferrai per un braccio. «Padre Epifani, a me bisogna ammazzarmi. Ditelo a Mazzapinta che m'ammazzi lui, se no io ve l'assicuro, per un bicchiere di vino mi faccio turco. Io muoio dalla sete». «Aspetta, Nakira, aspetta un momento e non pensare a niente». S'allontanò di corsa verso le scale, mentre io cercai di farmi piccolo, di arrotolarmi tutto come una lumaca per non sentire quel tremendo caldo e freddo nella schiena. Rimasi solo in un angolo. Gli uomini si alzavano, si sedevano, erano inquieti, ma parlavano poco. Solo qualche frase mi arrivava ogni tanto da lontano. «Si deve tener duro», disse Mastro Natale. «Io ho l'idea che prima crepiamo di fame», rispose Cristoforo Rio. «Perché non ci danno niente da mangiare?» «Che gliene fa?» disse Mazzapinta. «Ormai sanno che ci taglieranno la testa». Dopo un poco rividi padre Epifani chino su di me, che cercava di tirarmi su con una mano la nuca, come si fa coi piccini per dar loro da bere. «Cos'è?» «Vino», disse. «Vino? Come l'avete avuto?» «Non ci pensare. Ho dato il crocifisso d'argento della corona e in cambio ho avuto il vino. Bevilo tutto». Il sole tramontò. Ed un tratto parve nel sotterraneo che fosse già notte. solo al posto delle finestrelle comparvero dei rettangoli azzurri. Fosse effetto del vino o della febbre, mi addormentai e quando mi svegliai era notte piena. Doveva essere passato il tocco perché in cielo era uscito l'ultimo quarto di luna. Mi sentivo meglio, sfebbrato, tranquillo, un altro. Guardando attorno vidi che avevano acceso un lume a olio ai piedi delle scale, per il quale si distinguevano i compagni sdraiati l'uno addosso all'altro per terra o seduti con le spalle al muro, mentre muovevano qua un braccio, là una coscia, come una covata di conigli che tenta lo spazio. Pure almeno un uomo a Otranto s'era scordata la guerra quella notte. Cantava. Era un canto in lingua forestiera che entrava dolcemente dalle finestrelle e meravigliava le nostre orecchie. «È un turco», disse Mazzapinta sedendosi di botto. «Starà sugli scogli a destra del porto», aggiunse Mastro Natale, che già era seduto. «Canta lui», disse Amaro Mazzapinta, ma stette a sentire. Era così bella quella voce, pura e sonora nel silenzio della notte. «Deve essere molto giovane», disse Mastro Natale. Il canto saliva, si faceva una cosa sola con la notte, con la luna, con la nostra tristezza. Forse il saraceno chiamava le stelle perché scendessero dal cielo nelle sue mani e si malinconiva perché restavano lassù. «È canto d'amore», disse Mastro Natale. Risposero gli zoccoli dei cavalli prendendo a battere sul lastricato del cortile di guardia. Risuonarono anche dei passi nello stesso cortile e lui cantava, il saraceno ignoto, la sua nenia triste, come avesse il cuore sulla punta di un ramo secco. Dalle finestrelle entrava odore di alghe, che era l'odore del nostro mare. «Ehi tu», disse Mazzapinta vedendomi seduto, «sei risuscitato?» «Le notti d'agosto sono corte e perciò sta per venire l'alba», disse Cristoforo Rio. «Sarà tramontana, meglio così», rispose Mazzapinta. «Si patirà meno caldo a salire sul colle della Minerva, perché là ci porteranno». «Saremo una processione», io dissi. «Aspetta di vedere quanti ne restano», rispose Mastro Natale. «A te la notte ha tolto la paura, ma ad altri la darà, e ci sarà tra i piedi da capo quel calabrese pieno di immondizia». Del calabrese non si parlò più, e nemmeno della tramontana. Eravamo in uno stato dell'animo per il quale ogni cosa in pochi minuti veniva a noia. La notte, che doveva essere corta, non finiva mai. Le chiazze di luna sui muri erano sempre allo stesso posto. La luna s'era fermata. Mi figurai che la notte non finisse più. Se qualcuno si muoveva, alzava un braccio, il braccio pareva più lungo, aveva del fantastico e non si capiva nemmeno che fosse un braccio. E quell'ombra dietro di me? Era padre Epifani che mi osservava. Quando lo salutai, fece mostra di cercare qualcosa in terra. «Padre, io vado con gli altri», dissi. Acconsentì con la testa e stringendosi, torcendosi le mani, sussurrò: «Quanti resisteranno? Quanti?» Passato qualche poco, venne il mattino. Era il 14 agosto, vigilia dell'Assunta. Pensai, è il giorno che ho chiesto in moglie Nicoletta, perché quando uno sta per lasciare la vita è curioso quanti particolari si ricorda, ma nello stesso tempo è come se, avendo tanti numeri pronti, dovesse fare un'operazione e non gli riuscisse il calcolo. A un certo punto sentimmo una massa di piedi scendere le scale del sotterraneo, sicché si fece di colpo silenzio sbigottito. Le guardie turche, fornite di mazzi di corde, cominciarono a legarci le braccia dietro la schiena, mentre il loro capo, che seguiva da un gradino delle scale l'operazione, teneva la testa eretta quasi portasse corona. In seguito ci fecero salire nel cortile, dove vedemmo arrivare anche quelli degli altri sotterranei, col viso floscio di gente insonna e gli occhi sperduti. A questo punto un turco prese a girare in mezzo a noi, reggendo in mano una tavoletta su cui era scritto in lingua turca. Il calabrese rinnegato, che faceva da interprete, gli camminava a fianco e, voltandosi a destra e a sinistra, diceva: «Chi vuol credere a quanto è scritto qua sarà salvo, chi non vuol credere sarà ucciso». «Amici, tenete duro», gridò Mastro Natale, «siamo uomini d'onore». «Tu taci», rispose il calabrese, «non è permesso parlare, ciascuno pensi a sé». Alzò la voce in modo che lo sentissero tutti, disse: «Chi vuol credere a quanto è scritto qua?» Fece segno alla tavoletta: «Lasci i compagni e passi da quella porta nell'altro cortile». Trascorsero un po' di minuti, 10, 20, chissà, e qualcuno si staccò dal gruppo. Lentamente, a testa bassa, si avviò verso la porta. Noi guardavamo tutti tesi, in silenzio. Poi il numero di quelli che se ne andavano aumentò. Uscivano frettolosi, come se scappassero. Io corsi con gli occhi a padre Epifani. Era fermo in prima fila, con un forte dolore stampato sulla faccia. «Canaglie!» disse Cola Mazzapinta. Ci guardammo fra di noi. Eravamo ancora tanti, centinaia. Il calabrese tornò a girare tra le fila. Doveva avere idea, da serpente quale era, che col passare del tempo altri avrebbero mollato. Adesso diceva: «Chi vuol riavere la moglie e i figli si muova ed esca da quella porta. Potrà tornarsene a casa, mangiare, bere, fare il mestiere che gli pare. Avete sentito? Riavrà la moglie e i figli». Dava l'effetto di quelli che vendono al mercato e lodano la merce. Come quelli trovano sempre chi si ferma ad ascoltarli, così un gruppetto di otrantini uscì dalla fila e si accostò al calabrese. «È proprio vero che ci date la moglie e i figli?» «Come no?» rispose il calabrese. «Parola di Ahmed Pascià». «Io vado», gridò Salvatore, un oste del Borgo Vecchio, arrovesciando la testa, e corse via verso l'altro cortile. Una ventina di uomini lo seguì. Allora Antonio Primaldo, cimatore di panni, uomo vecchio e tranquillo, che mai aveva fatto sentire la sua voce ai tempi addietro, scivolò svelto fuori dalla fila e, arrivato nel tratto vuoto del cortile, muovendosi a scatti furiosi la testa sopra le spalle, curve per via della corda che gli legava le braccia dietro la schiena, con immenso trasporto gridò: «Basta fare i vigliacchi! Abbiamo combattuto per il re e ora combattiamo per le anime nostre onorate! Evviva la Santa Fede!» Le guardie gli saltarono addosso e cominciarono a prenderlo a pugni, a dargli colpi sulla schiena col rovescio delle scimitarre, al che tutti ci mettemmo a urlare, sforzandoci di disfare i lacci delle corde. Ci riuscì Mazzapinta e corse in aiuto di Primaldo, che, sfinito per l'età e per le botte, era caduto a terra. Venne un rinforzo di guardie, qualcuno a cavallo dava di sprone correndo all'impazzata in mezzo a noi. L'ordine presto fu fatto, ma l'opera del calabrese ormai era finita. Immobile, con le spalle al muro, pallido, ci guardava socchiudendo gli occhi, mentre la pelle della sua faccia a momenti si increspava per l'ira, quell'ira che i vigliacchi nei momenti difficili hanno per la gente che fa il suo dovere. Nessuno di noi uscì più dal gruppo. Dopo essersi scambiate alcune parole, domande e risposte, le guardie presero a contarci. Io, che mi trovavo in prima fila, sentii il loro capo dire nella nostra lingua al calabrese: «Sono ancora ben tanti». «Accidenti», rispose il calabrese, «si mette lunga la faccenda. Tireremo fino a notte. Per questo bisogna non perdere tempo, è meglio cominciare subito», disse il turco. Contarono i primi 50, fra cui capitai anche io, e ci avviarono al colle della Minerva in file di 5. La palla tonda del sole, ancora rossastra, veniva su dal mare, mentre noi si andava per la salita lentamente, legati alle corde. Guardai il campanile della cattedrale, perché avrei voluto sentir suonare le campane, ma le campane tacevano. Era difficile andare col cuore come un'arancia spremuta. Uno stormo di cornacchie marine passò sopra la nostra testa, e io alzai gli occhi a guardarle, poi li chiusi. Quando li riapersi, vidi che eravamo quasi arrivati. Ma Dio, si stava salendo la rampa degli oleandri, l'ultima della via del colle. Avrei voluto gridare: «Aspettate, fermatevi, è tanto lungo il tempo che deve venire dopo, lasciatecene ancora un po', che vi costa?» C'era un grande silenzio. Avevamo tutti le mani legate, la bocca chiusa e il sole sulle spalle. Arrivati allo spiazzo ci fermammo. Il pascià sedeva alla turca su un tappeto rosso davanti al padiglione, la mezzaluna d'oro sulla berretta. Il boia era pronto. Vicino a me saltellò terra terra una cicala, felice lei che avrebbe continuato a saltellare. Allora alzai ancora gli occhi, mentre il cuore faceva la trottola. Vidi una grande luce su tutta la campagna e gli oleandri che si slungavano i rami nel cielo, bianchi e rossi. Quegli oleandri del colle della Minerva furono l'ultima cosa che vidi in vita mia. Chi l'avrebbe mai detto?